Benvenuti su Casa Luneas, web radio podcast, dove le storie prendono vita e la musica è un viaggio. Mettetevi comodi, il racconto sta per cominciare. Benvenute e benvenuti. Oggi ci immergiamo in un'atmosfera davvero particolare, esplorando un testo breve ma intenso. Parliamo del racconto Sotto il portico blu di Virginia Luneas. Cerchiamo di pronunciarlo bene, Luneas. Esatto, Luneas. È la nostra fonte principale. Fa parte del progetto Casa Luneas, sì, ancora Luneas, e della collana Sottopelle. E già la descrizione della collana, scritture senza tetto, testi che sussurrano, beh, dice molto. Sì, l'idea è quella di testi che lavorano dentro, che restano, appunto, sottopelle. Bene, quindi la nostra missione oggi è svelare un po' le sfumature di questo racconto, lo stile, i temi, un'esplorazione di questo angolo di Napoli. Pronti? Prontissimo. Iniziamo. Allora, il cuore della narrazione, quasi un protagonista direi, è questo portico blu. Il testo lo descrive in modo molto suggestivo, un frammento di Napoli che vive tra le pieghe del tempo. Non è un luogo qualsiasi. No, affatto. È quel colore, il blu. Sì, insolito per la pietra vesuviana. E c'è quella frase bellissima: sembrava respirare con la città. Già questo ci dice che non è solo una scenografia, ma qualcosa di vivo. Esatto. L'ambientazione qui fa tantissimo. Virginia Luneas crea un'atmosfera che quasi si tocca, non trovi? Assolutamente. C'è proprio questa sensazione di tempo sospeso. Come se lì sotto le regole normali non valessero più. Sì, e il vento che porta odori. Mara, basilico, storie non dette. È Napoli, ma è anche... mistero. Un mix perfetto. E i suoni della città arrivano come attutiti, lontani. Creano una specie di bolla. Una bolla, sì. Il portico diventa un rifugio, una soglia, quasi un luogo sacro. Laico, ma sacro. Proprio così. E questa atmosfera così, beh, così densa fa da sfondo perfetto all'incontro. Un incontro particolarissimo, quasi tutto giocato senza parole tra i due protagonisti, che restano anonimi, lui e lei. Una scelta forte, eh? Niente nomi, niente dialoghi fitti. Esatto. Tutta la comunicazione passa per altri canali. Gli sguardi, i piccoli gesti, il silenzio stesso. Sembra quasi che Luneas voglia dirci che a volte le parole sono inadeguate. O forse non servono. E infatti si parla più di riconoscimento che di amore, vero? Precisamente. C'è quella frase chiave. Non c'era sorpresa, solo riconoscimento. Forte. È come se si fossero già incontrati da qualche parte. In un sogno, in un'altra vita, chissà. Quindi non il classico colpo di fulmine. No, per niente. È più un lento riaffiorare di qualcosa che c'era già. Un legame nascosto che viene alla luce lì, sotto il portico. Questo aspetto del riconoscimento preverbale, quasi istintivo, è potente. Mette in discussione come pensiamo agli incontri di solito. Sì, sfida l'idea che ci si debba per forza presentare, parlare, scambiare informazioni. Ma questo silenzio così carico, non c'è anche il rischio magari di idealizzare un po'? O forse è una difesa, per non rompere l'incantesimo, diciamo? Domanda legittima. Potrebbe essere entrambe le cose. Una difesa per preservare la purezza di quel momento, forse. Ma c'è un dialogo, uno dei pochi, che forse ci dà una chiave. Quando lei chiede: hai mai pensato che gli sguardi siano più veri delle parole? Ah sì, me lo ricordo. E lui cosa risponde? Risponde: le parole cercano di spiegare, gli sguardi ricordano. Ricordano. Bello. Ecco, la parola analizza, a volte limita. Lo sguardo invece si connette a una memoria più profonda, emotiva. Non cercano di capirsi con la testa, ma di sentirsi. Questo spiega perché la comunicazione non verbale sia descritta con tanta cura, allora. Non è un silenzio vuoto, ma pieno di possibilità, dice il testo. E la loro vicinanza fisica cresce piano piano, vero? Senza forzature. Esatto. Segue un ritmo tutto suo, interno. E si raccontano storie, ma con lo sguardo. C'è quel passaggio incredibile. Lei raccontò di un sogno, non con parole, ma con lo sguardo. È quasi wow. Sì, è molto fisico, sensoriale. E poi ci sono i dettagli, piccoli gesti che diventano enormi. Lei che si tocca i capelli, lui che le guarda le mani. Piccole cose, ma cariche di significato in quel contesto. E il libro? Il libro che cade e si apre proprio sulla pagina che parla di attese. Sembra quasi un segno del destino, no? Beh, di sicuro non sembra una coincidenza casuale. È come se l'ambiente partecipasse, commentasse in silenzio. E quindi Napoli non è solo sfondo. Assolutamente no. In questo racconto di Virginia Lunneas, Napoli è viva. È una complice, come dice il testo. Respira insieme ai personaggi, ne amplifica le emozioni silenziose. Gli odori, i suoni filtrati dal portico, le luci della sera, tutto contribuisce. È vero, l'ambientazione diventa quasi un motore della storia. Sì, un esempio perfetto di come lo spazio possa influenzare la psicologia dei personaggi. E tornando al portico blu, il suo ruolo simbolico è davvero ricco. Possiamo vederlo in tanti modi. Tipo? Beh, è un rifugio dal caos esterno. È un osservatorio privilegiato sulla vita che scorre. Giusto. È una soglia, un passaggio tra dentro e fuori, tra solitudine e incontro. E per l'intensità di quello che succede lì, diventa quasi un luogo sacro. È anche un teatro intimo per questa scena silenziosa. Quindi non solo un posto fisico, ma uno spazio mentale, emotivo, che permette questa connessione speciale. Proprio così. È come se la sua stessa struttura, le colonne consumate dal tempo, creassero le condizioni giuste. E il blu? Quel colore insolito. Che significato ha, secondo te? Beh, il blu è un colore carico di simbolismo. Notte, sogno, profondità, spiritualità, a volte malinconia. E a Napoli, dove dominano colori più caldi, un portico blu spicca. È quasi un portale. Un portale. Mi piace. Contribuisce a creare quell'atmosfera un po' onirica, sospesa, quasi magica. E non è un blu qualsiasi. È quello che sembrava respirare con la città. Si lega all'anima del luogo. Affascinante. Se pensiamo ai temi principali che emergono da Sotto il portico blu, l'attesa è fortissima, no? Decisamente. Inizia proprio con lei che aspettava. Ma non sappiamo cosa, chi. Ed è questo che la rende un'attesa universale, quasi esistenziale. Sì, un'attesa aperta. E poi la lentezza. Il racconto è un vero omaggio alla lentezza. Si muove piano, come certi ritmi della città. Una Napoli diversa da quella frenetica che magari si immagina. Sì, una Napoli intima. E il racconto si sofferma sui dettagli minimi, sui gesti lenti, sui silenzi lunghi. È una rivincita della lentezza, in un certo senso. Quello che trovo interessante è come questi temi, attesa, lentezza, silenzio, si leghino perfettamente alla filosofia della collana Sottopelle e di Casa Lunneas. Ah, le scritture senza tetto. Esatto. Racconti che sussurrano, che lavorano nel tempo. E questo testo ne è un esempio perfetto. Anche la temporalità del racconto non è lineare, ma sembra quasi circolare. Ogni sera è un ritorno, un approfondire lo stesso momento sospeso. Il testo lo dice, no? Il tempo non è lineare, ma circolare. Come le maree o la luna, sì. E lo stile di scrittura di Virginia Lunneas è fondamentale per questo effetto. Assolutamente. È uno stile molto evocativo, suggestivo. Usa poche parole, ma scelte con cura. Lavora per sottrazione. Sì, non accumula, ma suggerisce. Le immagini sono forti, ma delicate. E c'è quella qualità quasi cinematografica che dicevamo. Ogni scena è costruita per restare. È vero. Non ci sono spiegazioni psicologiche dirette. Si fida molto dell'intelligenza emotiva di chi legge. Bisogna lasciarsi trasportare dalle atmosfere, dagli sguardi, dai silenzi. Esattamente. Lunneas mostra, non spiega. Evoca emozioni attraverso dettagli concreti. È uno stile che si sposa benissimo con i temi. Richiede anche a noi lettori di rallentare, di metterci in ascolto. Proprio così, di partecipare. E arriviamo al finale, che poi non è un vero finale, no? No, è una specie di non finale. Non c'è una chiusura netta, una soluzione. Non si dicono addio, non si fanno promesse. L'ultima sera finisce così, un po' sospesa. Ma non è un difetto, anzi. L'apertura è coerente con tutto il racconto. Forse suggerisce che l'esperienza è troppo, troppo grande per essere chiusa lì. Può darsi. O che la promessa di un ritorno non sia nelle parole, ma negli sguardi, nel luogo stesso. L'idea che il portico li richiamerà. E il titolo dell'ultimo capitolo è bellissimo. La sera che non finisce. Molto significativo. Non è solo poesia, racchiude proprio l'essenza di quell'esperienza. non finisce perché resta dentro. E c'è quel dialogo finale, poche parole ma pesantissime. Lei dice: questa sera è nostra. E lui? E resterà anche quando non ci saremo più. Ecco, qui c'è l'idea che certi momenti, certe connessioni trascendono il tempo. Esatto. Anche se quell'incontro rimane un episodio, la sua essenza, l'intensità di quel riconoscimento silenzioso, resta. Nello spazio interiore e forse anche nel portico stesso. Un'idea di eternità nell'istante. Molto bello. A questo punto forse vale la pena ricordare il contesto più ampio. Cioè come sotto il portico blu si inserisce nel progetto Casa Luneas, Luneas e nello stile dell'autrice. Giusto. Dalla presentazione del progetto emerge questa ricerca di narrazioni intime, quasi sussurrate, che esplorano temi universali, le connessioni umane, il non detto, l'influenza dei luoghi. Casa Luneas vuole essere uno spazio per una scrittura che va in profondità, che esplora anche le zone d'ombra. E questo racconto ne è un esempio perfetto. Direi di sì. Incarna l'idea di scrittura senza tetto, di sottopelle. Storie che non hanno bisogno di trame complicate per toccare corde profonde. Lavorano per suggestione, atmosfera. L'ambientazione, il non detto, il ritmo lento, sono tutti elementi di uno stile riconoscibile. E per chi volesse saperne di più? Beh, c'è il sito www.casaluneas.it. Può dare ulteriori spunti sulla visione del progetto. Bene, allora provando a tirare un po' le somme di questa nostra immersione nel materiale, cosa ci portiamo via da sotto il portico blu? Io direi prima di tutto questa incredibile potenza del silenzio. Luneas ci fa vedere come il non detto possa essere più forte delle parole. Concordo pienamente. Poi l'importanza dell'atmosfera e del luogo. Il portico, Napoli, non sono solo sfondo, ma partecipano attivamente. Sono quasi personaggi aggiunti, sì. E infine questo invito a riscoprire il valore della lentezza, dell'attesa. La bellezza nei dettagli minimi è quasi un manifesto contro la fretta, no? Sì, decisamente. E forse un'ultima cosa ce la suggerisce la dedica all'inizio del racconto. Mi ha colpito molto. Quale? Dice: a chi ha camminato sotto un portico senza sapere dove stava andando. A chi non ha paura del silenzio perché sa che lì dentro c'è tutto. Mamma mia, bellissima. Rende il racconto un'esperienza che riguarda un po' tutti, no? Chiunque abbia sentito quel senso di smarrimento fertile, di ascolto profondo. Vero. Grazie per aver ascoltato Casa Luneas, web radio podcast. Se le parole vi hanno toccato, tornate a trovarci. Ogni racconto è un invito a restare ed a raccontarsi. Casa Luneas è l'arte di raccontare, un luogo libero dove le storie parlano al cuore. Se vuoi sostenere questo viaggio, lo puoi fare ora. Clicca su Dona ora con PayPal nella home page di casaluneas.it. Ogni gesto è una scintilla che tiene accesa questa arte di raccontare e la voce di Virginia Luneas.